Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. La storia che raccontiamo oggi ci porterà a lambire uno dei più grandi crimini di tutti i tempi, uno dei peggiori orrori che l'uomo moderno abbia mai conosciuto. E sfioreremo il responsabile di questa tragedia, di questo orrore, Adolf Hitler. Perché la storia di oggi riguarda una donna la cui vita ha toccato quella del dittatore nazista. Una donna che è il simbolo dell'inconsapevolezza, forse colpevole, di tanti tedeschi distratti mentre si compivano atrocità e ingiustizie. È la storia di Gertrud Junge, l'ultima segretaria di Adolf Hitler. Es spricht der Führer! Es lebe Deutschland! Quando Gertrud Junge, detta Traudl, nasce il 16 marzo del 1920 a Monaco di Baviera, la Germania sconfitta nella prima guerra mondiale sta cercando di rinascere. L'anno prima è stata creata la Repubblica di Weimar con una nuova costituzione che non era nient'altro che il tentativo per il paese di darsi una forma di democrazia liberale, ed era un tentativo difficile. Fino dai primi anni, quando Gertrud è solo una bambina, la giovane Repubblica è scossa da tensioni, dagli estremisti sia di destra sia di sinistra. I primi, lo sappiamo, avranno la meglio con l'avvento del nazionalsocialismo. La nostra protagonista nasce in una famiglia piccolo borghese. Il padre Max Humps è un mastro birraio, tenente nella riserva dell'esercito tedesco. La madre Hildegard è in qualche modo collegata al mondo militare. Il padre infatti è un generale originario della Baviera, Maximilian Zottmann. Sono anni molto difficili per il popolo tedesco. La Germania ha un'economia molto debole, la prima guerra mondiale ha lasciato un segno profondo. Tre anni dopo la nascita di Traudl arriva anche una sorellina, Inge. Non è però un buon momento per la famiglia, perché Max Humps resta senza lavoro. Proprio in quel periodo aderisce a un'organizzazione politica di destra, la Freikorps Oberland, la stessa di cui fa parte il giovane Adolf Hitler. La formazione si schiera apertamente contro la Repubblica di Weimar. Per questo Max Humps viene bandito dal paese, lascia la famiglia e si trasferisce in Turchia. La moglie decide di non seguirlo, chiede il divorzio. Traudl ha 5 anni. Hildegard prende le bambine e si trasferisce a casa del padre, il generale Zottmann. È un uomo prepotente e severo, come racconta la nipotina, la stessa Traudl. Sfortunatamente la mia famiglia era completamente apolitica. Mia madre ci ha cresciuto con il solo aiuto di suo padre, che era un generale. In casa era un vero tiranno, un diavolo in casa e un angelo con le altre persone. Non si interessava di politica, non ne parlavamo mai. Siamo state cresciute secondo altri principi: fare a meno del superfluo, sacrificarsi, fare un passo indietro. Erano considerate tutte virtù, anche se oggi sembra il contrario. Ero una bambina incredibilmente conformista. Spesso dovevo rinunciare a tante cose, fare sacrifici, perché mia madre aveva attraversato momenti difficili. Divideva la casa con il padre e non aveva denaro, in quanto divorziata, e il nonno non perdeva occasione per rinfacciarle il suo aiuto. C'era sempre tanta pressione mentale e morale. Contenders in the pool. Ooh, on a girl to be right, it is all. genitori divorziati, quindi una sorellina più piccola di 3 anni, Inge, pochi soldi in casa, la mancanza di un padre che si sente per le due bambine, soprattutto per Gertrude. Traudl ha un sogno, è quello di fare la ballerina, ma il destino le riserverà ben altro, un destino condizionato dalla situazione familiare. Sono finita a lavorare con Hitler davvero per una serie di coincidenze, di opportunità e di stupidità. Da ragazzina non avevo chiara la strada che avrei voluto prendere, ma non ho potuto fare le scuole superiori perché costavano troppo. Mia madre mi ha detto: è meglio se fai una scuola commerciale e trovi un lavoro in ufficio. È il modo più veloce per guadagnarti da vivere. Ed è stato quello il mio destino, senza molta scelta. Un altro destino ben più grande, ben più terribile, che si compie negli anni in cui Traud è solo una bambina, è quello della Germania. Ha 13 anni quando Adolf Hitler prende il potere. Il paese nel 1930 è colpito dalla crisi economica mondiale, la Grande Depressione, e la già fragile economia tedesca finisce in ginocchio. Il Partito Nazionalsocialista di Hitler cresce nei risultati elettorali. Il suo leader, a gennaio del 1933, diventa cancelliere. Giura solennemente di assolvere gli obblighi dell'ufficio di cancelliere, senza interesse di partito e per il bene della nazione. Lo giuro. E giura inoltre di rispettare la Costituzione, appoggiare il presidente e rispettare i diritti del Reichstag con l'aiuto di Dio. Lo giuro. Il mondo in cui cresce Traudl Jung è quello della ascesa hitleriana, delle camicie brune, degli ideali aggressivi della grande Germania della svastica. E lei è una giovane fervente nazista, come tanti ragazzi. E come tanti ragazzi è affascinata dalle parole appassionate e violente di colui il quale si è autoproclamato Führer, condottiero della gente tedesca. Un condottiero che porterà l'Europa nella guerra, nell'orrore, e che la nostra protagonista sta per incontrare faccia a faccia. Torniamo a parlare di Gertrude Jung tra poco. In Vienna we sit in a late night cafe. Straight connection TEE. Trans Euro Express. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita di Gertrude Jung, detta Traudl. È la storia di una ragazza che ha vissuto uno dei momenti più tragici della storia, a fianco di Hitler, gli ultimi momenti nel bunker di Berlino. E lei ha raccontato di non avere mai saputo o voluto approfondire il destino degli ebrei, le voci sui campi di concentramento. Come molti tedeschi, non si è resa conto, pur essendo lei assolutamente in prima linea, della tragedia, delle atrocità che si stavano compiendo. Naturalmente in un secondo tempo se ne sente responsabile, dice che avrebbe dovuto usare il cervello senza farsi conquistare dalla personalità sinistramente, tragicamente magnetica di Hitler, che lei ricorda come una persona gentile e paterna. Sono gli anni 30. Adolf Hitler ha preso il potere nel 1933 quando è diventato cancelliere. È quello il mondo in cui cresce Traudl. È un mondo fatto di svastiche, di militanti in marcia, di nemici, perché tutte le grandi dittature hanno preso piede configurando al popolo qualche nemico da combattere, con tanto di comizi con folle adoranti. Und der deutsche Volk siegt! Oggi non c'è alcun dubbio. Hitler era un criminale assoluto. Era un criminale, solo che non l'avevo capito. A un certo punto, successivamente, ho cominciato a chiedermi se me ne sarei dovuta accorgere. Ma avevo 13 anni quando apparve sulla scena per la prima volta. E io ero immatura in tanti aspetti. Dopotutto, come me, ci furono milioni di persone che non lo capirono. Voglio dire, non fui l'unica a non rendermi conto di che criminale fosse. Ho provato a rincuorarmi su queste considerazioni. I sensi di colpa di questa ragazza sono i sensi di colpa di un popolo, sensi di colpa che il popolo tedesco si porterà dietro per anni. Di tante cose non si rende conto la nostra protagonista, ma intanto capisce che non si avvererà mai il suo sogno di diventare una ballerina, non solo perché la famiglia ha pochi soldi, ma anche per colpa di un carattere troppo arrendevole, poco capace di affermare i propri desideri e le proprie aspirazioni. Tanto vale consolarsi con le aspirazioni di un folle. Non sono mai stata capace di seguire le mie inclinazioni e non ho mai avuto quella sensazione di sicurezza nella mia famiglia. Mia madre faceva tutto per noi, davvero. Ma io invidiavo i bambini che potevano dire cose tipo: mio padre dice questo, mio padre pensa che... Ho sempre pensato che avere un padre sia molto importante. Il sogno di ballare diventa invece reale per la sorella minore Inge, che presto intraprende una carriera artistica proprio nella danza, carriera che la porterà a vivere e a lavorare a Berlino. Intanto Traudl resta a casa con la madre e sotto il giogo fastidioso del nonno generale. Nel 1936 si iscrive a una scuola commerciale, al termine della quale trova lavoro come impiegata, assistente in un giornale, poi segretaria in una casa editrice. Lavora lì quando la Germania invade la Polonia e Hitler comincia la sua conquista dell'Europa. Sie geben es heute ganz ungeniert selber zu. Jawohl! Polen hätte wahrscheinlich eingewilligt, aber das wollten wir nicht. Und England nur sagen, auch sie werden den Kampf bekommen. È la prima fase della guerra, quella folle ubriacatura, quella in cui Hitler vince battaglie su battaglie contro il quale si schierano in quel momento solo Francia e Inghilterra. Il suo mito in patria è ancora incrollabile, la vita dei tedeschi prosegue normalmente, la battaglia è lontana, Traudl Junge lavora come segretaria, ma sogna ancora di poter ballare. A 21 anni le si presenta un'occasione. Nel 1941 pensavo ancora di poter soddisfare la mia passione per la danza. Lavoravo già in un ufficio, ma feci lo stesso un esame di ingresso in una scuola di danza. Il risultato fu ottimo e per un attimo pensai di poter fuggire dal lavoro di impiegata per sempre. Ma a quel tempo, durante la guerra, per cambiare lavoro ci voleva il permesso del tuo datore di lavoro e la casa editrice per cui lavoravo non acconsentì a lasciarmi andare. Mi sentivo così frustrata e triste. Condivisi tutto il mio disappunto con mia sorella, che faceva la ballerina a Berlino. La sua migliore amica conosceva Albert Bormann, era suo cognato. Gli chiesero di farmi trasferire a Berlino. Fu la mia occasione per uscire di casa e anche di vendicarmi della casa editrice. L'incontro con il destino è rappresentato da Albert Bormann, è un pezzo grosso dello staff di Hitler, finirà a Norimberga. Viene assunta nella cancelleria del Reich, raggiunge a Berlino la sorella che nel frattempo, lei sì, è diventata ballerina del Deutsches Theater. Si apre una nuova stagione per Traudl, è lontano da quella casa opprimente e da quel nonno prepotente e violento, è a Berlino. Oh, you're right. Paradossi della vita, della storia e del destino. Una ragazza che per sfuggire a un nonno prepotente e violento va a lavorare con Hitler. Il lavoro nella cancelleria del Reich inizialmente le piace, è lontana da casa, vive con la sorella e poi da fervente nazista si trova nel cuore del regime. Non ha ancora contatti con il Führer per il momento. Quando lavoravo nella cancelleria del Führer non lo incontrai mai faccia a faccia. Aprivo la sua posta, leggevo le lettere d'amore che le donne gli mandavano, ma lui non era lì di persona. Nessuno dei miei colleghi lo vedeva. Hitler stava nel suo quartier generale personale, molto lontano dal nostro ufficio. Ma le cose stanno per cambiare, perché al personale della cancelleria viene annunciata una gara di dattilografia. Nessuna spiegazione, ma le voci girano. Pare che Hitler stia cercando una nuova segretaria personale. Albert Bormann insiste con Gertrude affinché partecipi. Lei non ha ambizioni in quel senso, perché la sua vita le va più che bene. Ma alla fine, visto che lei è una di quelle che dice sempre sì per accondiscendenza, decide di partecipare a questo test. Per qualche tempo non se ne sa più nulla. Nel dicembre del 42 le 10 ragazze con il miglior risultato vengono convocate e caricate senza tante storie su un treno speciale di Hitler. Stanno andando da lui, nel posto dove preferisce stare, la Tana del Lupo. È un complesso tetro e inquietante nei boschi della Prussia orientale, oggi è territorio polacco. È lì che la storia di Gertrud Junge, segretaria con il sogno di ballare, cambierà per sempre. Torniamo tra poco. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia terribile e emblematica di Gertrud Junge, una ragazza che a poco più di 22 anni visse da segretaria personale a fianco di Hitler negli ultimi anni della sua follia e del suo declino, della sua caduta. Gertrud è il simbolo del terribile abbaglio che tanti tedeschi presero, non solo chi partecipò attivamente all'orrore nazista, ma il simbolo di tutti quelli che non hanno potuto, non hanno voluto e non hanno saputo vedere oltre la retorica di Hitler e quindi non hanno detto quel no che avrebbe potuto cambiare la storia. È l'inverno del 1942. Gertrud è stata portata con altre 10 candidate al cospetto del Führer. È un lungo viaggio da Berlino verso il fronte orientale, verso la Tana del Lupo. È un edificio nel buio della foresta prussiana dove il Führer ama stare. Rimanemmo nel treno per alcuni giorni finché Hitler non ebbe tempo di vederci. Poi una notte fummo portate attraverso una foresta buia al bunker del Führer. Fu lì che avvenne l'incontro. Era un posto spiacevole. Fummo allineate nell'anticamera, nella zona della servitù. C'erano delle sedie. Aspettammo che arrivasse Hitler. Fino a quel momento lo avevo visto solo nelle apparizioni pubbliche e nei telegiornali. Quindi conoscevo la sua espressione militaresca con il braccio teso. Ma a noi apparve quel gentile uomo anziano che ci parlava con voce bassa e con un sorriso amichevole. Strinse la mano a ognuna di noi, guardandoci dritto negli occhi, chiedendoci il nome, dicendo poche parole con un'aria paterna, amichevole. Voglio ringraziarvi, signorina, per essere venute qui in piena notte. Ma in guerra purtroppo è così difficile restare padroni del proprio tempo. Posso chiederle come si chiama? Margarete Lorenz, Heilmannführer. E da dove viene? Da Fulda, Heilmannführer. E lei come si chiama? Ursula Puttkamer, Heilmannführer. Non è necessario il Mein Führer, mi dica semplicemente da dove viene. Francoforte sul Meno, Mein Führer. Mi chiamo Anna Potroski, sono nata a Berlino. Per la precisione originaria di Pankow. Hedwig Brandt, di Kralsheim, Svevia. E come si chiama lei? Traudel Humps e sono di Monaco. Una ragazza di Monaco. Bene, signorina Humps, venga con me. E da quel momento Traudel diventa la segretaria personale di Hitler, del Führer. Nei suoi ricordi Hitler è un uomo gentile, anziano, dai modi pacati, dall'aria pacifica, che mostra anche una pazienza notevole. La prima volta che detta una lettera alla ragazza, evidentemente nervosa, avviene quello che viene ricostruito nel film La caduta di qualche anno fa. La mia Blondie non le farà niente. Sei un cane talmente intelligente, vero? È senz'altro molto più intelligente di alcune persone. Sieda qui, si mette a suo agio. Non ha motivo di essere nervosa. Quando ho detto commetto una tale quantità di errori che le sarà impossibile farne tanti quanto me. L'esperienza di incontrarlo fu completamente diversa da quello che mi sarei aspettata. Non era per niente spaventoso ed anzi c'era un'atmosfera pacifica. Quando entrai nella stanza mi accorsi di quanto facesse freddo lì dentro. Hitler non amava le stanze calde, però fu molto amichevole con me. «Bambina mia, non avere paura», mi disse. «Non puoi fare tanti errori quanto me. Siediti pure. Posso accendere una stufetta elettrica per te?» Successivi Gertrud lavora a stretto contatto con Hitler nel suo staff personale. Lo segue in tutti i suoi spostamenti, a Berlino, nella Tana del Lupo in Prussia, ma anche nella residenza di Berghof, nelle Alpi Salisburghesi. Le segretarie personali del dittatore in realtà sono quattro. Oltre a Traudl, che è la più giovane, ci sono Johanna Wolf, Christa Schröder e Gerda Christian. Insieme a loro vive a stretto contatto con Hitler, fino a conoscerne tutti gli aspetti personali e intimi. A parte i suoi disturbi di stomaco e digestivi, dava l'idea di avere una salute di ferro. Ed invece aveva a che fare con uno stile di vita molto poco salutare. Molta poca aria fresca, molto poco movimento. Non fumava né beveva, per quanto questo non basti a fare di una persona in salute. Ma i suoi problemi erano tutti connessi ai suoi disturbi digestivi e forse questa è la ragione per la quale lui aveva un'alimentazione vegetariana ed uno stile di vita così sbilanciato. Dipendeva molto dal suo medico, il dottor Morell, e questo dottore era un personaggio molto esotico. Era stato un medico di bordo ed aveva lavorato per anni in India. Oggi definirei come olistico il suo approccio alla medicina, con alcuni elementi omeopatici e rimedi naturali. Il dottor Morell lo doveva aiutare molto, dandogli in continuazione pillole per la sua digestione o per ridurre il gas. E gli prescriveva anche iniezioni di ormoni e vitamine, alle quali il Führer imprecava. Per Gertrud, Hitler è più di un datore di lavoro. Lei stessa ammetterà nel corso degli anni dopo la caduta del nazismo di essere sempre stata affascinata dalla personalità del Führer. Non era la sola. Non solo. Per Traudl, Hitler incarna appieno quella figura paterna di cui ha sentito la mancanza per tanto tempo. Al fianco del dittatore si sente protetta, sicura. Proprio su incoraggiamento di Hitler, nel giugno del 43 si sposa a Monaco e smette di essere Traudl Umps. Prende come marito Hans Hermann Junge, naturalmente ufficiale dell'SS. È un matrimonio che dura poco. L'ufficiale muore poco più di un anno dopo, il 13 agosto del 44, sul fronte della Normandia. La guerra sta volgendo al peggio per i tedeschi. Il fronte orientale è in arretramento dopo la mancata conquista di Mosca e la controffensiva sovietica. È partita la tragica ritirata dalla Russia verso il centro dell'Europa, che travolse anche decine di migliaia di italiani. Al sud le truppe tedesche se la vedono con gli alleati, che sono sbarcati all'inizio dell'estate sulle coste della Normandia. Tutto si sta sgretolando. Hitler organizza personalmente le operazioni militari dal quartier generale di Berlino. Nei primi mesi del 45 Gertrud si trasferisce con lo staff del Führer nel Führerbunker sotto la cancelleria del Reich. Non ebbi mai la percezione che lui pensasse di perseguire obiettivi criminali intenzionalmente. Per lui erano ideali, erano grandi obiettivi, e al loro confronto la vita umana non significava nulla. Questo mi divenne chiaro solo in seguito. Nell'entourage di Hitler, nella sua sfera privata, ero come protetta dai progetti megalomani, dagli atti barbarici. E questa fu la cosa tremenda per me. Fu uno shock quando mi resi conto di quello che stava succedendo. Quando avevo iniziato a lavorare là, avevo pensato di trovarmi alla fonte dell'informazione, mentre in realtà ero in un punto oscuro. È come se all'interno di un'esplosione ci fosse un punto di totale calma. E questa fu la grande illusione per me. Non delusione, ma grande bugia. Una bugia a cui avevo creduto. E in questa specie di bolla protettiva. Naturalmente non si parla degli orrori, dell'orrore più grande, dello sterminio sistematico degli ebrei, ma non solo, zingari, omosessuali, testimoni di Geova, comunisti, malati di mente, oppositori del regime. E tutto questo, a partire dalla questione ebraica, è totalmente assente nei discorsi che Gertrude sente nel bunker. Nella cerchia di Hitler nessuno sapeva quello che stava realmente accadendo agli ebrei. Certo, col senno di poi devo ammettere che se qualcuno di noi avesse insistito per scoprire la verità, probabilmente sarebbe saltata fuori. Ma credo anche che fossimo tutti molto cauti con le domande. Non eravamo degli eroi e non ci spingevamo alla ricerca di informazioni più complete. Tutto sta crollando, le cose stanno volgendo veramente al peggio, sono gli ultimi mesi di guerra, le truppe tedesche sono in rotta su tutti i fronti, ma Hitler dal bunker continua a pianificare offensive improbabili, è resistenza a oltranza, ormai sta farneticando. Il 16 aprile del 45 i sovietici sferrano l'attacco decisivo a Berlino, dove si comincia a combattere strada per strada, vicolo per vicolo. La sconfitta della Germania è ormai inevitabile. La notte tra il 20 e il 21 aprile Hitler propone al personale femminile di lasciare il bunker per mettersi in salvo in qualche modo, trasferendosi alla residenza di Berghof. Due segretarie partono, con lui restano Traudl e Gerda Christian. Rimangono anche la cuoca, la segretaria di Bormann e Eva Braun, che è la compagna del Führer, sulla quale il ricordo di Gertrude non è proprio lusinghiero. Secondo me c'è anche una forma di gelosia, perché tutte queste donne erano evidentemente soggiogate dalla personalità, anche se votata al male, di Hitler. Eva non era certo una bellezza, non aveva una grande personalità. Era semplicemente una ragazza abbastanza carina. Una bella figura, piacevole, amichevole, ma non particolarmente intelligente o dotata di talenti speciali. Era semplicemente carina. She was just nice. Intanto i nemici, gli odiati sovietici, sono alle porte. Non c'è più speranza né illusione per Hitler e per i suoi fedelissimi, che sono rinchiusi sottoterra nel bunker. La sera del 28 aprile il Führer sposa Eva Braun e chiama Gertrude e vuole dettare il suo testamento politico finché c'è tempo di farlo. Scusi, mi ero addormentata. Così ha riposato un po', bambina. Prenda il blocco da stenografia. Questo è il mio testamento politico. Da quando, nel 1914, impegnai le mie modeste forze come volontario nella prima guerra mondiale in cui il Reich si trovò coinvolto, sono ormai trascorsi oltre 30 anni. In questi tre decenni ho dedicato i miei pensieri, i miei sforzi e la mia vita unicamente al bene dell'amato popolo tedesco. I secoli passeranno, ma dalle rovine delle nostre città e dei tanti monumenti continuerà a sgorgare con rinnovata forza l'odio per coloro che sono i responsabili di tali rovine, coloro che sono all'origine di tutto, gli esponenti e i sostenitori del giudaismo internazionale. Hitler viene informato della fine di Mussolini, avvenuta pochi giorni prima. Fine di Mussolini, piazzale Loreto compresa. E non vuole che gli succeda la stessa cosa. E non vuole neanche consegnarsi vivo agli americani. Non vuole subire nessuna di queste umiliazioni. Decide di togliersi la vita. Sono le 3:30 del pomeriggio del 30 aprile del 1945, insieme alla moglie Eva Braun, e mentre Gertrude sta giocando coi figli di Goebbels per distrarli in quelle ore drammatiche. Racconta Traudel, improvvisamente si sentì il rumore di uno sparo, così forte, così vicino, ci zittimmo tutti, l'eco rimbalzò in tutte le stanze. Goebbels disse: adesso il Führer è morto. Il giorno dopo la Junge fugge dal bunker insieme a un gruppo di persone, tra cui la guardia del corpo personale del Führer e un paio di segretarie. Nel frattempo anche Goebbels e la moglie si sono suicidati, portando con sé nella loro follia tutti i loro figli, che vengono avvelenati a uno dentro a quel bunker. Lei intanto fugge. Fugge assieme a un gruppo di persone, tra cui la guardia del corpo personale del Führer e un paio di segretarie. E il gruppo viene intercettato dalle truppe russe, anzi sovietiche. La Junge è arrestata, messa in prigione a Berlino e viene interrogata molte volte. E cercano di capire il suo ruolo nello staff di Hitler. Soprattutto vogliono farsi raccontare ogni cosa degli ultimi giorni e degli ultimi momenti di vita del capo del nazismo. E grazie ai racconti di alcuni soldati sovietici che Traudl inizia a capire la verità. Le raccontano di cose terribili fatte alla popolazione dai tedeschi durante l'offensiva in Russia. E presto scoprirà anche la verità sui campi di sterminio che, per ordine di quel capo dai modi così pacati, hanno distrutto oltre 6 milioni di vite. Penso che dovrei essere arrabbiata con la bambina che ero, con quella giovane ragazza. O forse dovrei perdonarla per non essere stata capace di riconoscere in tempo l'orrore che quel mostro provocò. Non capivo in cosa fossi coinvolta e soprattutto che dicevo solo sì, senza pensare affatto. Non era come pensavo. Ero una fervente nazista e quando arrivai a Berlino avrei potuto dire no. Non voglio questo lavoro, non voglio essere mandata nel quartiere generale del Führer, ma non lo feci, perché ero semplicemente molto curiosa. Non avrei mai potuto immaginare che il destino mi avrebbe fatto trovare in una situazione che non avevo mai desiderato, ma ciò nonostante trovo difficilissimo perdonarmi per tutto ciò. Es fällt mir schwer, mir das zu verzeihen. E tutta la Germania per anni sentirà questo senso di colpa. C'è uno scrittore che vi consiglio, si chiama Erich Böll, che parla spesso nei suoi libri di questo, di quella enorme e tragica contraddizione vissuta da un popolo. Traudl viene liberata dopo alcuni mesi, riesce a uscire dal settore russo, attraversa quello britannico, dalla Baviera entra nel territorio tedesco occupato dagli americani, viene di nuovo arrestata, interrogata, finalmente è libera senza alcun tipo di accusa a suo carico. Da quel momento riesce a vivere, diciamo, una vita normale, lavora nell'editoria, poi ha scritto le sue memorie, ha raccontato di quell'esperienza da ragazza, un'esperienza terribile, straordinaria, ha contato con uno dei momenti più tragici della storia dell'uomo, nel bunker di Berlino sotto il palazzo del Reich con il Führer Adolf Hitler. Ha vissuto per brevi periodi in Australia, dove si è trasferita la sorella ballerina, forse scappando il più lontano possibile dal suo passato. Le è stata negata la residenza a causa del suo passato nazista. È morta a 81 anni di cancro nel 2002 a Monaco, non prima di aver raccontato la sua storia, giustificandosi per la propria cecità, per non avere capito chi aveva vicino. 2 anni dopo la sua morte, il suo punto di vista è diventato il fulcro di un film meraviglioso che vi consiglio, un film importante che fu candidato agli Oscar con un gigantesco Bruno Ganz. Il film è La Caduta, proprio su quegli ultimi giorni nel bunker. Alcune delle cose che raccontiamo parlano di colpi d'ala che sarebbero stati necessari ma non sono avvenuti, e proprio come nel caso di Traudl Junge, quel colpo d'ala mancato che forse lei ha rimpianto per tutta la vita. È una delle storie che vi stiamo raccontando, e se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci altre storie su cui puntare il microfono, fatelo, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it o veniteci a cercare. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.